città per cantare la voce di Ron. In questo caso vi vogliamo raccontare invece di cosa racconta la città e quindi dei suoni che ritroviamo in città e paesi del Trentino. È un progetto, si chiama proprio Come ti suona. Buongiorno a Sara Maino, bentrovata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Sara, hai guidato un bel laboratorio formato e che ha coinvolto tanti giovani. Questo è il progetto iniziale, insomma, davvero smuovere e interessare i giovani al loro territorio. Sì, questo era uno degli obiettivi principali, un bel viaggio, anche richiamando la canzone che abbiamo appena sentito, un viaggio nella comunità Alto Garda e Ledro. Diciamo subito che il progetto è un progetto del piano giovani di zona Alto Garda-Ledro 2015 ed è molto complesso, un percorso lungo di 6 mesi che si concluderà a marzo qui ad Arco al cantiere 26 con una serie di eventi. Ma in sostanza cosa si è fatto? Sì, abbiamo parlato di suoni, ma non soltanto. Il titolo del progetto in effetti è Come ti suona MPTE, narrare l'Alto Garda-Ledro tra suoni, storie e incontri con la gente. Certo, significa che i suoni sono il motore di qualche cosa, di un cambiamento. I suoni quell'aspetto, diciamo, sono stati il nostro obiettivo di ricerca. Perché? Perché l'obiettivo del progetto è l'educazione alla capacità di ascolto. Ma cosa c'entrano i suoni del paesaggio? I suoni del paesaggio c'entrano perché educare i ragazzi, i giovani, a rendersi conto, a fare attenzione a quello che ci circonda, dai suoni piccoli ai suoni grandi, significa ampliare la loro visione del mondo, significa prendere coscienza di quello che ti circonda, di come sei tu, di come sono gli altri, anche di attivare l'attenzione, la consapevolezza, un senso di rispetto. Ecco, questa è stata la prima parte del percorso che si è snodata in tutti i comuni della comunità Alto Garda e Ledro. Allora abbiamo mappato i suoni dei paesi e delle città. Quindi avete raccolto proprio i suoni che ogni angolo, ogni contesto diverso li caratterizzava, insomma, quindi in qualche modo ci sono poi stati effettivamente, non so se siete già arrivati ad elaborarli, insomma, delle differenze di suono, immagino di sì, insomma, tra forse il lago di Ledro e il centro di Riva del Garda c'è una certa differenza di suoni, insomma. Certo, quello che risalta è che chiaramente ogni paese, ogni città ha la sua voce. Certo, noi li abbiamo catalogati su archivi digitali, ma questo progetto, sì, sono saltate fuori delle differenze, ovviamente ci sono più suoni agricoli, che ne so, a Tenno, ad esempio, a Ledro, o i suoni di una natura che qui abbiamo dimenticato, ad esempio il suono delle stalle. Rispetto all'Arco, al centro storico, dove però abbiamo ritrovato storie che ci parlano di contadini fino agli anni 50, di gente che aveva le stalle nelle vie del centro storico, piuttosto di Riva, dove abbiamo il suono dell'acqua, o piuttosto di Drena, che è il regno delle acque e delle fontanelle, o Pietramurata e Drò, dove abbiamo rintracciato altri suoni di tipo urbano. Quello che volevo dire però è che il progetto, il cui titolare è l'Associazione Mercurio di Riva del Garda, è svolto in collaborazione con Porto Beseno, di cui faccio parte, e con l'azienda servizio alla persona Casa Mia di Riva del Garda. Perché? Perché dico questo? Perché dopo aver formato alcuni giovani qui ad Arco all'arte di ascoltare, il progetto è diventato un po' più complesso. Cioè, ci siamo recati in diverse puntate presso i centri aperti territoriali, dove ci sono i ragazzi che fanno i compiti, i ragazzi delle medie. Ecco, lì con loro, insieme ai miei giovani allievi, abbiamo svolto a nostra volta dei laboratori sonori per insegnare loro l'arte di ascoltare i luoghi. Dopodiché, dopo averli introdotti a questo metodo che risveglia l'ascolto, infatti è denominato ascolto attivo, insieme ai ragazzi, ai giovani, siamo andati a incontrare gli anziani. Quindi, nelle loro case, è stata un'esperienza bellissima, perché gli anziani di ogni paese ha aperto la propria porta e ci siamo ritrovati in 15, in 20, in un salotto, in terra, ad ascoltare storie di altri tempi. Perché le storie di altri tempi? Perché valorizzare la memoria di queste persone insieme a questo gruppo di giovani orecchie? Ma perché le storie sono trasversali, nelle storie ognuno di noi può riconoscere un frammento di sé, no? E quello che è importante in questa operazione è che si smuova la passione, l'entusiasmo, quindi capisci che questo progetto è focalizzato proprio sul suono, sulla capacità di ascolto, dai suoni alle voci delle persone, perché propaga vibrazione, emozione e quindi quella capacità di coinvolgimento che pensa, ti fa dire a un ragazzo proprio la settimana scorsa a Dro, ti fa dire, oggi ho messo via qualcosa lì per 2 ore, non l'ho più guardato, e si riferiva al CEL. Certo. Voglio dire, va bene la tecnologia contemporanea, va bene, però anche il ricreare queste comunità di ascolto penso che sia uno stimolo per l'interazione sociale tra generazioni anche distanti tra loro e anche vicine. Certo, tra l'altro tecnologia che assolutamente non scansate, perché anzi diventa il vostro supporto principale, quindi certo. Non è un ragionamento contro la tecnologia, ma è un usare la tecnologia laddove mi serve, non averla come punto di riferimento, no? In modo creativo, sai perché? Perché tutte queste storie, tutti questi suoni che abbiamo raccolto con i registratori digitali, documentando con la fotocamera, sono racchiusi in archivi digitali su internet. E questi archivi, ti faccio un esempio, per esempio adesso siamo arrivati a 90 suoni catalogati, arriveremo a una quindicina di storie, e abbiamo decine e decine di immagini, tutti questi archivi sono a disposizione della comunità, cioè sono condivisibili. L'obiettivo è formare una mappa interattiva della comunità Alto Gardeledro, dove tu schiacci, cioè segna posto su Arco, su Riva del Garda, e ti esce la foto e con il suono relativo o con la storia che racconta quel luogo. Certo. Noi volevamo provare a raccontare il nostro territorio attraverso l'azione dei giovani, anche il loro sguardo, in maniera creativa, attraverso questi due mezzi, i suoni e le storie. Certo, citavi prima Porto Beseno, appunto, di cui collabori, e proprio con quel progetto già raccontavi il territorio attraverso le storie, no? Questo collegamento tra generazioni è davvero importante per raccontare un territorio. Certo, con Porto Beseno sono anni, una decina di anni che lavoriamo sul territorio. Siamo partiti dall'Alta Vallagarina a raccontare Besenello. Tra poco, ad esempio, alla fine di febbraio ci sarà una presentazione pubblica proprio del lavoro svolto a Besenello, a Volano e a Cagliano, che sono sempre stati comuni molto fiduciosi, hanno creduto veramente in questo progetto di narrare il territorio sul web, e però sempre con queste azioni tra la gente, di ascolto e di stimolo, appunto, di incontro tra generazioni. Certo. È un format che si rivela vincente perché è molto semplice, soprattutto sviluppa umanità, e noi abbiamo bisogno di parlare insieme. Certo. Abbiamo bisogno di ritrovarci, certo il nostro linguaggio attuale sono le comunità virtuali, perché questo è il nostro linguaggio attuale, ma ci sono anche le comunità storiche, ci sono i narratori della comunità che sono gli anziani, ci sono quelli che hanno testimonianze da passare, e un bambino o una bambina sta sempre con la bocca spalancata di fronte al narratore, perché è lo stupore. Questo progetto ha l'obiettivo di muovere meraviglia verso le cose del mondo, certo. verso di noi, verso chi ci circonda. Bello anche riuscire a trasportare questo vissuto, insomma, in questo nuovo linguaggio, in questa nuova forma di comunicazione, ma senza perdere quello che ci può davvero regalare, appunto, chi ha molto da raccontarci, no? Andrebbe perso altrimenti, forse, se non si creano occasioni di confronto. Infatti così, dici bene, perché questi archivi digitali sono una delle tante forme per archiviare in modo vitale il vissuto delle persone, le storie che altrimenti andrebbero perse. Ma sai, è anche un'operazione in un certo senso anche di ecologia acustica, nel senso che noi documentiamo comunque il territorio, i suoi suoni, il suo paesaggio sonoro e il suo paesaggio culturale oggi nel 2016. Vediamo tra qualche anno come diventerà. Certo, allora, diciamo intanto che appunto a questo punto si è chiuso una prima fase, che è quella della raccolta di suoni. Hai già spiegato, insomma, ci saranno queste mappe assolutamente accessibili, quindi chi chiunque potrà andare a scoprire davvero che cosa propone il territorio dell'Alto Garda e l'Edro da un punto di vista di paesaggio sonoro, quindi magari associare dei suoni a quanto stiamo vedendo e a quanto possiamo vedere frequentando queste zone, o delle storie. E di fatto poi come procede? Da qui a marzo questi ragazzi cos'altro saranno chiamati a fare e come altro saranno coinvolti? Hanno fatto un bel lavoro fin qui, eh? Sì, un grandissimo lavoro. Ti posso dire che i ragazzi coinvolti in tutto, adesso devo fare i conti, ma saranno più o meno una novantina, un 60, 70, no, non lo so, il personale anziano anche, ce ne sono una quarantina tra i testimoni narranti che abbiamo rintracciato sul territorio. E colgo l'occasione proprio per aprire la fase 3 di questo progetto, che è la fase creativa. Perché dopo aver lavorato con programmi open source per editare tutte le interviste, i suoni, per pulirli, adesso si apre la fase creativa che si dirama in più direzioni. Dal 12 al 19 marzo, presso il Cantiere 26, che è il nuovo centro giovani di Arco, si svolgerà una serie di eventi di restituzione pubblica di questo progetto, una presentazione dove narreremo il nostro metodo e il percorso che abbiamo svolto, ci sarà una mostra di installazioni che documenteranno tutte le tappe del percorso, quindi ci saranno in mostra i suoni e le storie raccolte per ogni comune, ci saranno delle interpretazioni creative da parte dei giovani allievi, diciamo i più grandi, quelli sui 20 anni, che hanno seguito tutto il percorso, che sono stati tutor nei laboratori con i ragazzi. Interpretazioni creative, perché loro, con il loro sguardo creativo, restituiscono questa impressione di ascoltare, di aver ascoltato il luogo che abitano con le orecchie, di averlo vissuto negli incontri e scoperto nuove cose. Quindi un bel percorso per loro, ma che deve tornare anche alla comunità. Torna alla comunità, infatti ricordo che è un progetto giovani, quindi finanziato dalla provincia, e quindi tutto il patrimonio raccolto ritorna alla comunità ed sarà visibile per una settimana in mostra Cantiere 26. Si concluderà con una serie di eventi che prevedono una performance sonora basata sui suoni del paesaggio raccolti, dove gli stessi giovani saranno protagonisti, a cura di Silson Sound Music and Sound Design and Music. Poi ci sarà un laboratorio teatrale, e questo lo dico perché il lancio è un lancio per l'appuntamento di questo venerdì al Cantiere 26 di Arco alle 18, si apre la fase del laboratorio teatrale, cioè che cosa faremo? Ci sarà una piccola presentazione al Cantiere alle 18 di venerdì. Sono aperte le iscrizioni, venite. Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, sono aperte le iscrizioni a del laboratorio, il percorso laboratoriale a cura di Lua Art Survival Kit, perché vogliamo mettere in scena le storie raccolte, quindi frammenti di ciò che abbiamo ascoltato in giro per il territorio viene rigiocato, viene rimesso in circolo e trasformato in uno spettacolo itinerante che si svolgerà sempre a Cantiere 26 a conclusione di questa settimana di eventi pubblici. Bene, quindi a questa proposta teatrale non sono chiamati solo i ragazzi che hanno affrontato il percorso, ma davvero si può partecipare. Certo, si può partecipare, mettere in gioco la propria voglia di conoscere, di conoscersi un po' e anche di ascoltare e partecipare a rimettere in circolo queste storie raccolte in giro per la comunità Altoverde Ledro. Bene, punto di riferimento è dunque il Cantiere 26, il nuovo centro giovani, centro ricreativo di Arco. Dove si trova? Si trova in via Paolina Caproni Maini 26, da qui il nome Cantiere 26. Certo. Con parole vicino al ponte di Arco. Per avere maggiori informazioni sul progetto Come ti suona, basta inserire in Google la frase Come ti suona, punto di domanda, uscirà un post di un blog di Porto Veseno, lì ci sono anche i contatti, ad esempio l'email per avere informazioni o qualche cosa in più, come ti suona, @gmail.com. Bene, il numero di telefono. Il riferimento principale resta appunto il Cantiere 26 venerdì, per avere un'idea anche dei progetti appunto di restituzione alla comunità e quindi tutto quello che è previsto per quanto riguarda la presentazione di questo progetto, compreso il laboratorio teatrale. Quindi venerdì, questa serata importante se vogliamo entrare e far parte di questo progetto. Complimenti a tutti i ragazzi che ti hanno seguito, insomma, in questo Grazie. Percorso. E buon buon proseguimento a tutti. Grazie Salamaino. Grazie a voi, buona giornata e grazie alla chiacchierata. Ciao. Mattinata in blu. Dai colore alle tue frequenze.